quella della pioggia per mesi suonerà ed un'infinità di nebbia ancora scenderà e vedrai coprirà tutto intorno a noi e annegherà il tuo cuore anche se non lo vuoi perché d'autunno piove qui e non smette mai se vieni su da me vedrai ti abituerai e in Lombardia che casa mia vedrai la cattedrale che sembra una montagna con mille guglie bianche che la rugiada bagna e dei diavoli in pietra che sputano alle stelle e che graffiano il cielo con gesti di zitelle son secoli che fanno le stesse smorfie ormai se vieni su da me vedrai ti abituerai in Lombardia che è casa mia qui il cielo è così grigio che sembra venga giù qui il cielo è così basso che insegna l'umiltà è così grigio che un naviglio annegherà è così basso che il naviglio non c'è più il vento qui si invita ai funerali sai se vieni su da me vedrai ti abituerai in Lombardia che è casa mia ma quando il primo fiore dal fango nascerà e fra le ciminiere il pioppo canterà capirai che a novembre noi dobbiamo pagare quel che maggio promette e giugno ci può dare fra i grattacieli e i tram l'estate scoppierà se vieni su da me vedrai ti piacerà la Lombardia che è casa mia.